è un passo positivo, è una cosa positiva che siano stati identificati i presunti esecutori materiali dell'omicidio, perché all'indomani, insomma, di questo assassinio, ben pochi di noi immaginavano che potesse anche arrivare questo giorno. Tuttavia, non basta. Questa è la parola che, come dire, l'espressione che hanno usato i familiari, la vedova, chi ha partecipato alle lotte politiche con Maria Rei Franco, perché chi conosce le dinamiche criminali di Rio de Janeiro e conosce in particolare l'area criminale nella quale è maturata la decisione di eliminare Maria Rei Franco, sa benissimo che identificare gli esecutori materiali conta poco, nel senso che parliamo comunque di quelli che hanno premuto il grilletto, ma sappiamo che il problema non sta lì, il problema non sta in chi è stato assoldato per eseguire gli ordini, ma sta in chi ha voluto Maria Rei Franco morta. Per cui la cosa più importante è che è stata sottolineata sin dal principio ieri, è stata questa. Insomma, la cosa più importante è che si vada a fondo e che si possa scoprire chi abbia voluto eliminare un personaggio come quello di Maria Rei, che stava prendendo molto piede, perché io credo che Maria Rei Franco stesse diventando troppo un simbolo, non solo per le battaglie che faceva, ma per quello che rappresentava rispetto ai valori che posso definire, per sinteticità, di destra conservatrice, che poi sono quelli che sono al potere dal punto di vista politico in questo paese. Rappresentava perché era nera, perché era lesbica, perché era di una comunità, perché era, non solo perché era di comunità, cioè di favela, ma perché era riuscita, nonostante la sua nascita, come dire, problematica in favela, era riuscita ad emanciparsi al punto da potersi laureare, poter assumere anche un incarico pubblico. Queste sono cose che danno più fastidio nel fatto stesso di fare una lotta politica o di manifestare per strada, perché questo dà la speranza ad altre persone come lei di emanciparsi, e questi sono i messaggi che un certo settore vuole eliminare. Dal punto di vista criminale si sa che molto probabilmente non è stato neanche per il suo essere, come dire, attiva nella difesa dei diritti umani o contro gli abusi della polizia, perché contro quelli sono in tanti, ma quello che è costato probabilmente la vita a Maria Rei Franco, e questa è una cosa che è venuta fuori in occasione degli arresti che sono stati fatti il mese di gennaio, pare che sia stata eliminata perché si era opposta a un processo di speculazione economica, immobiliare e criminale nella zona est della città, che è, guarda caso, la zona dove vivevano anche le persone che l'hanno eliminata. Insomma, pare che è dove anche, tra l'altro, ha particolarmente peso l'organizzazione, diciamo, le organizzazioni criminali che si definiscono milizie, che sono appunto queste organizzazioni criminali composte da poliziotti ed ex poliziotti che lavorano sulla linea di divisione tra il legale e l'illegale, spesso ancora con l'uniforme addosso o no, e che come dire, si occupano di speculazioni economiche e criminali molto simili a quelli che sono la mafia, quindi il pizzo, l'imposizione di proprie forniture, oltre che l'imposizione di pagamento per la difesa comunitaria ai cittadini e ai residenti. Per cui, quale fosse l'ambiente nel quale è nato probabilmente la decisione di eliminare Maria Rei Franco era chiaro, sia dal punto di vista simbolico, sia dal punto di vista materiale politico, appunto di lotta contro queste speculazioni economiche, parliamo di miliardi, quindi è chiaro che un personaggio che dà fastidio e che fa perdere miliardi a un'organizzazione criminale, è chiaro che finisce nel mirino. E poi appunto gli arresti di ieri che hanno confermato appunto che gli esecutori materiali appartengono a questo, diciamo, questo calderone criminale. Il problema è chi ha voluto l'omicidio, e che probabilmente sarà la parte più difficile. Io ritengo anche che questi arresti, che siano avvenuti due giorni prima dell'anniversario della morte di Maria Rei, non credo che sia casuale, nel senso che sia stato voluto dare un segnale del tipo: sì, noi ci siamo, però adesso la seconda tappa quando arriverà? Perché questa sensazione l'ho avuta anche sentendo i commenti della vedova, di Marcello Fresciu, che sarebbe il deputato che era amico anche di Maria Rei. Insomma, tutti si chiedono: ok, sì, ci siamo, ma quando escono i mandanti? E questa è una cosa che è assolutamente fondamentale, e io non sono sicuro e non so se la democrazia brasiliana sia già abbastanza forte da, come dire, è in grado di garantire questo livello, diciamo, di investigazioni. Di certo si parlerà molto delle coincidenze che sono emerse nel corso della prima e della seconda investigazione. Sono tutte coincidenze che portano purtroppo al presidente della Repubblica Jair Bolsonaro, ai suoi figli, alla sua residenza, alle sue fotografie su Facebook con le persone arrestate, e al suo essere vicino di casa dell'omicida, al fatto che uno dei figli di Bolsonaro sia stato fidanzato con la figlia del presunto assassino, e tante altre, insomma, piccole coincidenze che messe insieme stanno cominciando a, come dire, sviluppare una serie di teorie cospiratrici nelle persone, che, come dire, chissà se resteranno cospiratrici o se diventeranno qualcosa di più reale.